Servigna, lasciami, traditor. Se ai numi inferni l'odio contro i ladini qui giurasti, rubello dell'amor tuo, della mia fiamma antica, tua sposa io più non son, ma tua nemica. Dolce mia, ben perdona. La patria, il genitore, il senato, la legge, guidar la mano e piede, ed il romano, il debito e la fede. La mia fede, o ingrato, e l'amor mio, e la tua fede amante, e l'affetto di moglie. Ah, Servilia, tu allor che ricusasti d'esser romana, alle mine obbedire, spezzasti le catene, ammorzasti le faci, in un giurando sul venerato etere mi togliesti baciar qui lumi ardenti. O mie tirane stelle, o giuramenti, dunque a me più non sei né marito né amante, modi come nemica Servilia più non ami. Addio! Se tu parti, la legge al partir mio, la patria e Tito. Addio, Servilia, addio. Senza man io cadurmo, che mai farò? Che mai farò senza Servilia? Astring clementi, man io Servilia ostende. Resto ai pianti, Servilia, io parto, ed io, tu qui rimanti. No, ti convengo. Dove? Fra i latini. Dove convenir non dei? Perché? Nemica sei. Vanne, perfido va, cerca fra l'armi, Geminio il mio germano, sfoga l'odio romano dentro al suo petto, irriga del sangue suo, la piaggia aprica, ed in quel cor latino svena il cor di Servilia. A te, nemica, chiudiamo.